Rieccoci, avevamo staccato chiedendo se effettivamente ci fosse un metodo per poter attirare la fortuna. E in questo caso abbiamo una storia da raccontare. Io l'ho preso sempre da questo articolo che ho trovato, che viene tratto dalla legge di attrazione. Scusate il gioco di parole. Paul Rogers, il ricercatore che ha scoperto il metodo PK Luck, che sarebbe il metodo per poter attirare la fortuna, una notte come tante altre va a dormire dopo aver programmato se stesso a svegliarsi nelle prime ore dell'alba per eseguire un particolare esercizio di comunicazione soggettiva, che consiste nell'influenzare se stesso attraverso un'autoprogrammazione avvenuta ore prime. Dopo essersi effettivamente svegliato all'alba, Paul riconosce l'inequivocabile successo di questa tecnica, ma ciò che accade nei minuti seguenti è a dir poco curioso. Paul in inizia a percepire intorno a sé un'energia dotata di una sua peculiare caratteristica positiva, benevola, un'energia ribattezzata come il ciclo della fortuna. Attualmente, grazie a Vadim Zelan, abbiamo a disposizione una terminologia che è più comprensibile per meglio definire questo concetto, cioè lo spazio delle varianti, una sorta di matrice globale nella quale sono presenti infiniti universi, tra cui quelli relativi alla fortuna sfacciata. Paul, grazie al suo esercizio, sperimentò la chiarezza mentale relativamente alla linea della vita del ciclo della fortuna, contenuta all'interno dello spazio delle varianti, e sapete che cosa intuì? Intuì che ciò che avrebbe dovuto fare era chiamare a sé, invocare questa linea della vita, questo ciclo della fortuna. Ed è così che fece. Andò a letto e il giorno dopo la sorpresa fu immensa. Eventi fortunati, scusate, si ripetevano uno dopo l'altro. Stessa cosa al terzo giorno, e questo gli fece realizzare in modo molto, molto profondo che gli eventi fortunati fossero connessi alla sua intenzione e al suo agire. Se chiami al te il ciclo della fortuna, esso verrà. Quindi dovremmo iniziare tutti quanti ad avere un atteggiamento molto positivo e ad iniziare a chiamare a noi questo ciclo della fortuna affinché ci accompagni. A questo punto mettiamo alla prova le mie teorie, disse Paul. Quella notte andò a dormire senza fare nulla. Il giorno seguente nessun evento fortunato si manifestò. Conclusione: se non programmo la mia mente subconscia a svegliarsi ad una certa ora del mattino e a chiamare di nuovo il ciclo della fortuna, nulla accadrà. Le due successive notti mise alla prova nuovamente le sue teorie e una serie di eventi fortunati si manifestarono nel corso delle due giornate. Sembrava incredibile, sembrava che una matrice universale potesse rispondere e farlo in tempi brevissimi all'intenzione di una persona. Era qualcosa che andava al di là del conosciuto, al di là di note e credenze. Invece di giocare con le sue brave registrazioni audio in grado di aiutare a programmare la mente subconscia, Paul fece una cosa completamente nuova, programmò il suo subconscio a svegliarlo in un'ora ideale, tra la notte e l'alba, per poi chiamare a sé il ciclo della fortuna. Dopo varie limature, esperimenti con diversi metodi più o meno simili, Paul mise a punto la sua tecnica. Quando la sera vai a letto, prima di addormentarti, programma il tuo subconscio, ripetendo molte volte questa affermazione: io desidero svegliarmi alla miglior ora possibile per attrarre a me il ciclo della fortuna e ricordare istantaneamente il perché io mi sia svegliato, così da essere consapevole del mio intento. Questa affermazione deve essere ripetuta più e più volte, ogni sera prima di andare a dormire. È come se tu stessi effettuando una comunicazione soggettiva. La differenza è che in questo processo tu sarai la tua mente subconscia, non come un trasmettitore, ma come un ricevitore che cattura letteralmente i segnali legati alla fortuna provenienti dall'intero universo. Allora, nell'articolo si chiede: alzi la mano chi non ci ha capito niente, alzi la mano chi ha mai sentito in vita sua una teoria come questa. Eppure funziona, dice l'articolo. Con me funziona, perché non provi anche tu, magari, lasci un commento sul sito, addirittura ci invita a lasciare un commento. Io non so se questa teoria funzioni, onestamente non l'ho mai sperimentata. Invito voi a sperimentarla, io magari mi metto di impegno anch'io perché mi piacerebbe attirare un po' di fortuna, ma penso a tutti quello. E invito anche voi a provarci, a programmare il vostro subconscio, a svegliarvi ad un'ora del mattino per invocare che il ciclo della fortuna vi colpisca. Proviamo a farlo, mandateci le vostre esperienze a questo punto su radioluzzi@hotmail.it. Io per questa sera avrei concluso, vi ho parlato della fortuna, della splendida Dea Tiche, dei sistemi per attirarla. Non ci resta che augurarci buona fortuna a tutti quanti, che la fortuna ci accompagni e di darvi appuntamento alla prossima puntata. Buonanotte.